Buongiorno, vuoi dirci qualcosa intanto? Intanto tu sei un compagno dello Spartak Lidense, quindi sì, magari dici qualcosa di come si sta vivendo questa prepartita e non so, poi magari parliamo un po' meglio della squadra. Sì, sì, certo. Intanto ricordo l'appuntamento che sarà oggi alle ore 15, quindi domenica calcistica, non con il calcio, quello che definiamo moderno, ma con il calcio appunto del calcio popolare, alle 15, Spartak Lidense contro Atletico San Lorenzo, un amichevole, insomma un incontro tra amici, tra compagni, e che giocheremo in casa, quindi giochiamo al nostro campo di Centrogiano, che è una periferia, diciamo, tra Roma, la grande città, e il litorale romano, perfettamente in mezzo, e si raggiunge anche facilmente grazie alla ferrovia Roma Lido. A parte questo, ci tengo a precisare che appunto sarà un incontro amichevole, anche un'occasione innanzitutto per scambiarci informazioni, idee, e soprattutto diciamo il progetto dell'Atletico San Lorenzo è abbastanza affermato, è una realtà anche molto diversa dalla nostra, che siamo molto più in periferia, una periferia molto difficile come quella del litorale romano di Ostia, però per esempio io considero fondamentale per esempio l'esperimento dell'Atletico San Lorenzo con la sua scuola calcio, anche con la possibilità di fare una squadra per le ragazze, insomma sono tutti temi che diciamo una certa rete di calcio popolare sta portando avanti. E voi la settimana scorsa facevate riferimento all'assemblea che si è tenuta presso la Locomotive Legrea a Napoli, quindi insomma c'è tutta un humus culturale che si sta diffondendo sul calcio popolare. Tra l'altro abbiamo deciso che prima o poi, sicuramente a gennaio, faremo un'assemblea nazionale proprio delle squadre di calcio popolari, molto probabilmente a Roma, è ancora tutto in via di definizione, però ecco, noi siamo un progetto ancora molto giovane rispetto ad altri, soprattutto alle realtà napoletane, perché sono soltanto 2 anni che siamo in vita, anche se quest'anno parteciperemo alla terza categoria della FIGC, quindi insomma ci si schiude un altro mondo in cui cercare di andare a incunearsi in qualche modo, per cercare anche un po' di far cambiare mentalità a questo sport, soprattutto il calcio, che è sempre più malato, come possiamo vedere dalle pagine dei giornali o dagli ultimi accadimenti tra calcio scommesse e quant'altro. Anche un'idea di sport più sano, sicuramente slegato da logiche di farmaci, doping, ma soprattutto anche un'idea culturale antirazzista, antisessista, che cerca anche di integrarsi con lo sport per i disabili, con il calcio solidale, insomma è sicuramente un progetto, quello del calcio popolare, dello sport popolare, che ha i suoi limiti, ma che secondo me sta cercando di affermarsi in modo molto dinamico, andando appunto a cercare di incunearsi nei più diversi livelli di discussione, ecco, che riguarda la società, lo sport, la cultura. Ti interrompo un attimo, devo segnalare un paio di cisti che sono arrivati al 346-66-73-263. Camionetta in piazza Montebello, 3 a piedi si sono avviati non so in che direzione, cisti. Quindi camionetta in piazza Montebello, 3 a piedi si sono avviati non so in che direzione, cisti. Invece un altro, posto di blocco della polizia stradale all'uscita da Vigliana Ovest. Questo è quanto, grazie. Guarda, allora, tornando all'intervista, insomma, sì, giustamente sottolineavi lo sviluppo, insomma, che sta avendo a livello nazionale, poi il calcio popolare anche come ambito di discussione e quant'altro, quindi questo sicuramente può, per una realtà appunto che si affaccia, una realtà nuova o quasi nuova come la vostra, sicuramente ci avete un terreno già aperto in cui inserirvi in modo virtuoso, appunto. Ci sono già esempi di squadre che, oltre ad fare della grande aggregazione, a fare delle polisportive, ad affrontare lo sport in un modo completamente diverso da quello a cui siamo abituati, oltre a questo riescono anche a ottenere ottimi risultati proprio contro le loro dirette concorrenti sul campo, che gestite magari invece in modo tradizionale, e quindi insomma si propone il calcio popolare, l'azionariato popolare, l'organizzazione assembleare e tutto il resto anche come qualcosa che vince su quello che è considerato invece tradizione intoccabile, quindi sicuramente appunto ci sono le possibilità per crescere ancora. Ci auguriamo che questo possa succedere a Ostia, perché oltretutto appunto in un territorio che presenta le sue difficoltà quel tipo di aggregazione abbiamo visto in varie città, come ad esempio anche Napoli, funziona, quindi funziona sia a livello sportivo sia a livello poi di crescita di esperienze sociali e politiche che possono essere veramente molto interessanti e avere grandi sviluppi. Sì, infatti, se posso aggiungere, hai ragione, insomma Ostia è una realtà molto molto difficile, tra l'altro ci siamo anche dovuti scontrare con alcune minacce, provocazioni da parte fascista, in particolare Casa Pound, che sul territorio purtroppo hanno anche una specie di pub, quindi una specie di sezione di ritrovo, quindi ecco, come dicevi tu, sicuramente punto di aggregazione sociale, ma anche appunto presidio, baluardo in un certo senso di aggregazione antifascista e antirazzista. Sì, che poi è proprio quello che lo sport popolare, come lo intendiamo noi, dovrebbe fare sempre, insomma, e che quindi ha anche l'importanza, insomma, di quelle realtà che appunto lo portano avanti. Certo, allora a me non resta che ringraziarvi per questo spazio, ringraziare Blackout Onda Rossa, e a questo punto appuntamento alle 15 per chi sta a Roma alla polisportiva Centrogiano, appunto per Spartak Lidense Atletico San Lorenzo. E dai, allora buona partita. Grazie. E ti ringraziamo. Buona giornata. Buona giornata e buona continuazione di trasmissione. Grazie. Grazie, ciao. In realtà chi ascolterà a Roma ascolterà a partita già conclusa, perché la mischia andrà in onda alle 17 su Radio Onda Rossa, ma insomma ci sarà occasione di tornare a vedere sia l'Atletico che lo Spartak al più presto durante l'anno, e sicuramente ne varrà la pena. E con questo direi che possiamo dire che la trasmissione di quest'oggi si è conclusa, e si è conclusa grazie all'ospitalità che ci ha dato Radio Blackout, e ricordiamo appunto ancora una volta che questa trasmissione è andata in diretta da qui, poi verrà riproposta in replica a Roma alle